Andiamo alla notizia del giorno, notizia che ieri Tony Truante è riesplosa sulle volte del cielo italiano, si è risvegliato dopo un anno in cui contemplando il cielo ha tratto le conclusioni che il cielo era più impotente di sé e che egli, lui, Silvio, è il più potente di tutti. È tornato in pochi minuti via il vortice, come il vento che abbatte le foglie dagli alberi d'autunno, così l'Italia è risprofondata nella crisi, nello spread, nel disprezzo del mondo ed è il trionfo di uno che evidentemente non ha più di sé neanche la possibilità di guardarsi allo specchio, perché ci vuole tutta la mancanza di intelligenza del mondo per un così trionfalmente autodissolutorio rientro sulla scena come quello di Silvio Berlusconi. E che dire? E che dire di questo frinire come di cicale d'estate, tutti in fila, di quelli del suo partito, tranne pochissimi, pochissimi sia loro onore, qualunque sia la ragione per cui lo fanno, ma insomma alcuni come Cazzola, come Giorgia Meloni, come Frattini, come Pisano, dicono no, guarda, sì, per favore risparmiaci questa ennesima stupidaggine, ma tutti gli altri, tutti gli altri, come se fosse riapparso il sole dalle nubi. Allora, questa cosa ha a che vedere, purtroppo c'è poco da scherzarci, perché l'eterno ritorno è sempre uguale, con una sconfitta certa, perché la sesta ricandidatura di Berlusconi che susciti nel suo partito, nella sua cosa di plastica lì, questo tipo di reazione è terribile.